Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. È un programma che viene condotto ogni giovedì in diretta e andremo avanti fino alle 21.30. E questo che ora andiamo all'ascolto è la sigla di inizio di questa trasmissione. Eccoci. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Più o meno alle ore 20 inizia questa trasmissione e va avanti fino alle 21.30. Vi ricordo che viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. E anche se è un'abitudine che facciamo alla fine trasmissione, ovvero dire i nostri contatti, per chi volesse insomma scriverci anche ovviamente di base in, con la posta elettronica, la casella, cioè la posta elettronica che è libera tutti @autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. E comunque questa trasmissione, come anche tutte quelle precedenti, le potete trovare in questo blog che si chiama zardismagneticsradio.noblogs.org. E altra cosa, che oggi sarà la trasmissione tutta praticamente musicale, non ci sono interventi in diretta o registrati, come sempre. Di conseguenza ci sfogheremo con la musica, che come ogni volta al 99% si tratta di punk hardcore, che spazia dagli anni 80 agli anni al momento attuale. E che altro dire, partiremo anche per tutti gli eventi che stanno accadendo, che a livello mediatico ovviamente hanno preso spazio, ovvero quello che sta accadendo tra Ucraina e Russia, e quindi ci fa tornare indietro con i decenni anche a quello che forse è nato il punk hardcore. E di base una delle band che hanno proprio lanciato il livello antimilitarista o comunque contro la guerra è una di queste band. In principio sono state ovviamente quelli che erano gli anarcho-punk, e tra questi Discharge, che ora andremo all'ascolto proprio di un loro album datato proprio 1982, quindi esattamente 40 anni fa. È una band che si era formata alla fine degli anni 70, nel 79, comunque faceva parte di tutto questo filone di band post a quello che è stato il punk del 77, che forse era un po' più un modaiolo, e poi questo movimento punk che si è proprio impegnato più che musicalmente anche per tutti i testi, anche ovviamente c'era il versante c'è il versante inglese che diciamo ha lanciato molto di più questa cosa dell'anarcho-punk, e comunque si è espansa a livello europeo ma anche a livello internazionale, anche se magari in parallelo era già nato anche negli Stati Uniti. Comunque quello che insomma così volevamo appunto aprire con questi Discharge, che qualsiasi brano e qualsiasi disco che hanno fatto nei decenni successivi, e che anche attualmente è una band che esiste, anche se vabbè li abbiamo passati più volte in questa trasmissione, ci sono state più un po' insomma di qualche variazione della formazione, e comunque oltre la metà dei componenti attualmente sono tuttora attivi nella stessa band. E che altro dire, che come dicevo questa band si era in particolare tutti i loro dischi, come già detto, sul genere antimilitarista, e così ha più o meno preso piede questo filone. Ovviamente sappiamo che il movimento punk hardcore non è solamente sul genere antimilitarista ma molto di più. E vabbè, iniziamo con questi Discharge. Una cosa che aveva spinta all'epoca ovviamente l'attuale situazione internazionale, sappiamo insomma c'era ancora la spaccatura in Germania, a Berlino, c'era la corsa all'armamento tra le superpotenze Russia e Stati Uniti, e questa cosa ovviamente preoccupava credo tutte le persone. E comunque era solo per dire insomma questi Discharge, antimilitarismo totale, anzi, proprio copertina con foto molto macabre, ma era comunque quello che accadeva nella realtà veramente, in tutto, insomma, sappiamo cos'è una guerra, al di là di quella che sta accadendo, ma ce n'è molte altre ma probabilmente non alzano il livello mediatico e quindi non se ne parla. Comunque andiamo all'ascolto di questi Discharge. Sì, altra cosa che non ho detto, dal loro album datato 1982, che era after the explosion, and at a distance of 60 miles, the light from the fireball of a single megaton thermonuclear device is 30 times brighter than the midday sun. This little boy has received severe retinal burns from an explosion 27 miles away. Thank you. The blast wave from a thermonuclear explosion has been likened to an enormous door slamming in the depths of hell. Bene, abbiamo ascoltato i Discharge, band inglese che era nata alla fine degli anni 70, e ci siamo ascoltati ben tre brani estratti da questo loro album datato 1982, che si chiamava Hear Nothing, Say Nothing, See Nothing, ovvero non sentire, non vedere, non parlare, che era un po' una presa in giro, cioè insomma era un po' la realtà, ovvero cioè, che tutti erano indifferenti alle guerre che accadevano in quel periodo, insomma, così adesso forse devo prepararmi per dire queste cose, ma a memoria, come ho detto prima, c'era la corsa all'armamento tra Russia e Stati Uniti, c'era questa famosa guerra fredda, e vabbè, più che altro era una corsa all'armamento nucleare, che non dimentichiamoci che comunque queste testate nucleari sono tuttora esistenti, e ancor di più nel nostro territorio friulano, in quella della base di Aviano, magari tutti non lo sanno, ma ci sono. E comunque all'epoca c'era appunto forse vabbè, il famoso attacco della tanto insomma appunto dell'Inghilterra, le famose Falklands in territorio insomma quasi di fronte all'Argentina, vecchia isola di conquista dei secoli passati. O comunque c'era anche la guerra, era iniziata la guerra tra Iran e Iraq, e comunque c'erano i primi contingenti italiani che partivano, ricordo quello in Libano, e avanti così, insomma, e ovviamente tutta questa situazione di guerra ha dato vita insomma al punk, anarcho-punk degli anni 80, dove era appunto insomma far valere e far sapere queste cose tramite i testi all'interno delle canzoni, come in un certo senso accade tuttora. Diciamo che sono passati decenni, ma nulla è cambiato. E come ho detto, questi Discharge sono stati, credo, forse tra le prime band a far emergere questa cosa a livello musicale nei testi, dove c'è stato un po' tutto insomma un allargarsi questa situazione, diffondersi a livello giovanile e soprattutto all'interno delle band musicali che nascevano a livello internazionale. Tra cui quelle che andiamo ora ad ascoltare, anche loro nati nell'81-82, anzi il primo disco è proprio datato 1982 e il secondo 7 pollici è stato uno split assieme agli Impact di Ferrara. Comunque stiamo parlando di una band di Udine, gli Eusars, che tra l'altro nel loro 7 pollici dell'83 con questi Impact di Ferrara, il loro lato si chiamava questa la loro speculazione di morte, ed era appunto una foto all'esterno di un bunker antinucleare che veniva proprio venduto qui da una ditta in provincia di Udine, anzi proprio alle porte di Udine, e c'è questa foto di questo bunker nucleare che veniva venduto come prendere quasi la legnaia da mettere in giardino per deporre i propri attrezzi, perché c'è un giardino insomma all'esterno della propria casa. Vabbè, al di là di quello, andiamo all'ascolto di questa band, è datata, cioè di Udine, anche se c'è stato un periodo che non ha poi più suonato negli anni 90, e noi ora non andiamo a farvi ascoltare i pezzi dell'epoca, ma comunque andiamo all'ascolto della loro ultima uscita, che è datata 2018, che è uno split così uscito un po' in sordina, forse anche di difficile reperibilità, perché questo 7 pollici è uscito in Giappone assieme appunto a una band giapponese, i Mustang, e ci sono questi tre brani nuovi o comunque inediti, non del periodo, usciti nel 2018. Che altro dire, che faccio anche per loro tre brani, come forse lo dicevo in passato durante questa trasmissione, che magari di ogni band faccio, insomma, se possibile ascoltare più di due brani, anche tre, non è per annoiarvi. Poi anche generalmente le band punk hardcore hanno dei brani molto brevi, e anche per farvi non è che quello che scelgo io è il migliore, insomma, così magari conoscete di più la band, ecco. Allora andiamo all'ascolto di questi tre brani usciti nello split nel 2018 in Giappone, che si chiamano, vabbè, la band Eusars, come ho detto, di Udine, e i tre brani sono Adesso come allora, Non ho paura e Scappa via. Bene, questi che abbiamo ascoltato erano gli Eusars, band di Udine, e i tre brani che abbiamo ascoltato erano Adesso come allora, Non ho paura e Scappa via. Fanno parte del EP 7 pollici che è uscito nel 2018 in Giappone e diciamo che è la loro ultima uscita. O perlomeno la loro ultima uscita con dei brani inediti, perché poi insomma è uscito anche un LP compilation in cui sono stati estrapolati dei vecchi loro brani. Comunque era un po' per collegarsi a quello che abbiamo in apertura, che abbiamo fatto ascoltare i Discharge come band credo riconosciuta come antimilitarista. Insomma, tutti i loro album e i loro 7 pollici non hanno mai cambiato discorso a livello di testi musicali, e questi Eusars erano un po' più anche per il genere musicale molto vicino a quello che era stato i Discharge inglesi. Insomma, in un certo senso sono stati definiti gli Eusars una band, i Discharge italiani, comunque band che era nata nell'81 e che è tuttora esistente. Bene, ora andiamo invece un po', rimaniamo sempre in questo filone, come un po' avevamo detto inizialmente che la trasmissione sarà tutta musicale, e un po' anche per quello che sta accadendo in Nord Europa, quello insomma che a livello mediatico ovviamente parlano di quello che accade, non parlano più di tanto di cos'è una guerra o quante ne accadono in giro per il mondo. Questa qui, siccome è diciamo più vicina, bisogna prenderne atto e parlare. Insomma, una guerra è sempre distruzione e sappiamo chi sono le vittime. E un'altra band diciamo su questo filone, che era uscita anche questa, nata nell'80, e anche per loro ascoltiamo dei brani, erano inglesi, erano i Dirt, e anche se noi le estrapoliamo tutti questi brani da una compilation uscita alla fine degli anni 90, e comunque era insomma conosciuta questa band perché faceva parte così della scuderia della Crash, dei Crash, che era un'altra band inglese e altra band anarcho-punk che ha pubblicato tantissimi dischi e anche ovviamente prodotto tante altre band proprio dello stesso filone anarcho-punk, tra cui questi Dirt, e come detto i loro dischi uscivano per l'etichetta della Crash Records. E andiamo ad ascoltarci anche per loro, come ho detto, due o tre brani, tra cui il primo che ascoltiamo, che si intitola proprio Anti-War. Loro sono i Dirt. We'll be right back. But did you see the grass so green? Did you ever stop and wonder why? It was turning so obscene. And it makes me wonder who I went wrong today. Was it just a mirror? Are you really that slip away? A woman can have over man's pride. The power that a woman can have over man's pride. Think of the man out of history. We can see what she's done. Responsible for the fastness. Feels guilt, teeth and none. Will get greater and greater until we've beaten you. The penalty will be long prison sentences. The penalty will be confiscation of everything you've ever got. Bene, questi sono i Dirt, anzi li teniamo anche in sottofondo, Dirt band inglese nata nell'80 e che le uscite discografiche loro erano in prevalenza tutte uscite per la Crest Records, etichetta sempre inglese, ovviamente creata da questa band anarcho-punk che erano appunto i Crest. Questi tre brani che abbiamo ascoltati comunque erano estrapolati da un loro album che si chiamava Just an Error, uscito nell'85, e comunque noi ovviamente non li abbiamo ascoltati direttamente da quell'album, ma bensì da un doppio album, pure anche uscito in doppio CD alla fine degli anni 90, e band che in quel periodo si riformò, perché la band si sciolse, se non erro, nell'87, e comunque vabbè, si era riformata poi negli anni 90, primi anni 90, fecero numerosi tour, credo ancora di più di quanto suonarono nel loro periodo dei primi anni 80 in giro quasi esclusivamente per l'Inghilterra. E vabbè, questo è quanto. Ora invece andiamo all'ascolto di quelli che ho citato, proprio i Crest, che è una band che si è formata proprio alla fine degli anni 70, in parallelo a quello che erano le band quasi, diciamo, quelli un po' pseudo modaioli, quali Sex Pistols eccetera eccetera, comunque non divulghiamoci in quello, e loro sono i Cress, e dal loro 7 pollici datato 1980, che si chiamava Nagasaki Nightmare, ci ascoltiamo appunto questi Cress. ¡1945年8月6日日本の広島は 人類最初の原爆原子爆弾の被災地となりました。その結果として 25万人の人々の尊い生命が奪われたと伝えられています。その3日後の8月9日には 長崎にも原子爆弾が投下され 6万人もの人々が亡くなりました。現在どのくらいの人々が原子爆弾の後遺症で亡くなっているのかは把握できません。 原爆による死因の過半数は火傷であると伝えられています。原子爆弾の投下地点から半径 2分の1マイル以内にいた人々はほとんど亡くなり、生き残った人々の半数も数週間以内に放射線障害で亡くなりました。長期にわたる放射線障害もまた悲劇をもたらしています。白血病、放射線障害、発育不全、悪性の病気等は 寿命を縮め、そして死に至らせています。放射能は風によって何百マイルもの広範囲に拡散され、雨や雪に混じって土壌の中に堆積されていきます。地球上で行われる原子爆弾の投下は果てしない程の悲劇と死者をもたらします。 Bene, questi erano i Cress, band inglese che diciamo forse tra quelli che hanno lanciato questo filone anarcho-punk molto antimilitarista sul finire degli anni 70 e che hanno prodotto anche una miriade di tanti altri gruppi o comunque in un certo senso fatto scuola. E questo era il loro disco datato 1980, era un 7 pollici che si chiamava Nagasaki Nightmare e che appunto ebbe credo un successo molto enorme che, come dicevo prima, hanno fatto espandere a livello internazionale insomma quello che era l'anarcho-punk e soprattutto l'antimilitarismo. Ora invece, così, dato che all'inizio di questo programma, che ripeto è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane a Udine, dalle ore 20 alle 21:30, e ho detto che insomma all'inizio avevo parlato di queste band inglesi, ma non è che sono stati gli inglesi, cioè questa diatriba che non si è mai risolta, ma meglio così, chi se ne frega, e che anche dal versante statunitense c'è stata ovviamente una grande risposta, ma più che una risposta, insomma, hanno ovviamente espanso anche loro questo ideale, tra cui credo questi americani Toxic Reasons, che un loro album datato 1984 si intitolava Kill by Remote Control, che già anche in copertina insomma faceva insomma già l'immagine di copertina, anche se era un disegno in cui l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, come mi viene a dire, come tutti insomma i presidenti dell'epoca avevano questa ambizione, corsa al riarmo, e c'era questo disegno in cui veniva rappresentata la Thatcher, che era il primo ministro inglese, comunque, ma al di là di quello insomma tutta una serie di missili ai lati, e addirittura c'era riprodotto Mussolini e anche Hitler, e anche già dal titolo di questo album, appunto Kill by Remote Control, una specie di insomma il significato insomma si intende uccidere stando dietro al controllo, tant'è che c'era anche disegnato come prima immagine il pulsante, come per dire schiaccio questo pulsante e faccio partire tutti i missili che voglio, tanto chi muore siete voi, sì sono gli altri, chi se ne frega, insomma più o meno insomma come tutte le guerre, come ho già detto prima, è quello che accade anche tuttora, insomma, in qualsiasi conflitto. E magari la faccio lunga, come detto, sto improvvisando così, insomma, per proprio non fare solo una serata solo musicale, perché oggi non ci sono i vari interventi in diretta e diciamo un po' preparati o comunque varie registrazioni. Questa è, come ho già detto, Radio Onde Furlane, diretta trasmissione Zardins Magnetics. Andiamo all'ascolto di questa band statunitense Toxic Reasons. We'll be right back. Questi erano i Toxic Reasons, band statunitense, dal loro album datato 1984 che si intitolava Kill by Remote Control. In un certo senso anche loro, insomma, quasi la maggior parte dei testi erano antimilitaristi. E come anche un'altra band sempre del periodo, sempre degli Stati Uniti, che andremo ora ad ascoltare, insomma, aveva una maggior parte di band che trattavano, insomma, dell'antimilitarismo, perlomeno tutto quanto che stava accadendo nel periodo dei primi anni Ottanta, guerra fredda, corsa all'armamento, soprattutto quello nucleare, insomma, il classico meccanismo io sono più forte di te. E loro erano i TSOL, che era la sigla di True Sound of Liberty, e questo è un loro album. Era un loro album datato 1981 e che recentemente è ristampato, perché quello del, appunto, questo dell'81 più che altro era un EP, c'erano 5 brani, e ora è stato ristampato con l'aggiunta di altri 5, insomma, vabbè. Ovviamente perché fa parte di quegli album, di quei dischi un po' diventati introvabili, se non, insomma, a cifre abbastanza esose. E quindi noi ascoltiamo ora un paio di brani per questi TSOL. People perfect. Bene, questi erano gli statunitensi TSOL, True Sound of Liberty, e come detto da un loro album, un loro EP datato 1981, abbiamo ascoltato alcuni brani, e anche se questi fanno parte di un album uscito recentemente, per appunto così raccogliere quella che era ormai un album irreperibile e dove erano stati aggiunti altri brani sempre del periodo. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band italiana, sempre un po' riferendoci a quel periodo, al periodo degli anni 80, e come detto loro sono, cioè no, non l'ho detto ancora, lo dico adesso, è una band italiana e sono in Diserzione, e una band della zona di Domodossola, che comunque non è stata una di quelle band così forse conosciute in modo maggiore rispetto a tante altre, che fecero dei dischi, dei vinili, insomma, di conseguenza una certa, c'era all'epoca, dovevi fare una tiratura minima, se non erro, di 1000 copie, e che quindi insomma si facevano conoscere. Questi Diserzione invece fecero solo, tra l'altro sono esistiti tra l'81 e l'84, fecero solo una cassetta con solamente cinque brani all'interno, e poi si riformarono così, diciamo, il decennio scorso, tant'è che i brani che ora noi andremo ad ascoltare fanno parte di un live che è avvenuto qua in regione, esattamente nel 2014, in quel di Trieste, diciamo è anche un live ufficiale, nel senso che è stato chiesto alla band, e quindi ci sono vari brani, tante le cover anche di band, altre band italiane del periodo, ma più che altro noi non possiamo andare a sceglierci i brani che volevamo, quelli diciamo con un certo titolo che poteva così riecheggiare l'antimilitarismo, perché è in traccia unica, è uscito così, e quindi così andiamo all'ascolto, probabilmente non è di altissima qualità, comunque loro sono in Diserzione di Domodossola. We'll be right back. Bumble. Bene, questi erano i Diserzione, band che è esistita tra l'81 e l'84, ma che loro non fecero nessun disco nel periodo, ma solamente una cassetta, una demo tape con 5 brani che si chiamava Fino all'ultimo rimbombo e che praticamente è stata così una decina di anni fa, come dire, non dico riscoperta ma quasi, comunque è stata fatta uscire su disco, qui 5 brani, un 7 pollici. E noi i brani che abbiamo ascoltati ora erano live, perché questa band, dopo l'uscita di questo 7 pollici che è stato così, diciamo, ripescato da, dopo l'interessamento, se non erro, addirittura da gente dalla Puglia, e la band si è riformata e ha fatto alcuni concerti in giro per l'Italia, tra cui appunto uno a Trieste, dove è stato estrapolato questo live che abbiamo ascoltato tre pezzi abbiamo ascoltato. Bene, ora invece passiamo ad un'altra band italiana, dato che insomma tutta la puntata odierna si è instaurata sull'antimilitarismo delle band punk hardcore anni 80, e non potevano mancare la band di culto, diciamo culto, vabbè, mi è venuto in mente questo termine adesso, è una band storica dell'antimilitarismo italiano, ovvero i Wretched, che pure loro, come detto prima, abbiamo ascoltato all'inizio i Discharge, e si basava tutto sui testi sull'antimilitarismo. E, anzi, tra l'altro, all'interno dei loro dischi presentavano un facsimile di quella che erano le domande per fare obiezione di coscienza in Italia, che all'epoca, ricordiamo, vigeva l'anno di naia obbligatoria per tutti, chiunque avesse appena compiuto 19 anni, a parte ovviamente rinvii per a causa, diciamo, scolastici, e vabbè, comunque loro sono i Wretched di Milano. E che altro dire, fecero uscire un sacco di 7 pollici, anche uno o due LP, e una band che è esistita anche dall'81 all'incirca all'88, e noi ci ascoltiamo dei brani che sono stati così recentemente, tutti i loro 4-7 pollici racchiusi in un unico album. E comunque sono state anche recentemente molte le loro uscite, grazie appunto all'interessamento, ma più che altro al fatto di uno di quella band, dei Wretched di Milano, ha deciso di ristampare quasi tutti i loro dischi, specialmente gli album, più anche questo album che raccoglie 7 pollici. Insomma, sono state varie le uscite. Noi ora ci ascoltiamo, sono molto corti, brevi, veloci, erano un po' musicalmente non molto, rispetto a tante altre band, molto, molto abili, se vogliamo. Vabbè, comunque il periodo era quello, chi se ne frega, anzi il loro slogan era caos, non musica. Anche per loro era più ovviamente il fatto del contatto basato ai testi, o comunque di quello che esprimeva il loro essere e la loro musica. E i brani che andiamo ora ad ascoltare sono strapolati da un loro 7 pollici che era uscito nell'83, che si chiamava In nome del loro potere tutto è stato fatto. E partiremo con il brano che si chiama Spero venga la guerra, non mi ricordo neanche com'era lo slogan, solo allora capirei che potevi far qualcosa. Comunque, al di là di quello, ci ascolteremo Spero venga la guerra, combatti, muori per la patria, muori per niente, forse anche ascolteremo Solo guerra, e comunque vabbè, Questi sono i Wretched di Milano. Bene, sulle note dei Wretched di Milano, che forse è un po' esagerato a dire, più che altro che volevo dire su loro il fatto della questione del loro motto caos non musica, poi personalmente me ne ricordavo insomma differenti. C'è anche da dire che li abbiamo estrapolati da un album che è stato rimasterizzato e quindi i suoni sono molto migliori rispetto a quelli di altri, da insomma dove ho ascoltato io da altre fonti per l'ascolto. Vabbè, al di là di quello, questi erano i Wretched di Milano, band che è esistita nei primi anni 80, band che non si è mai riformata, e comunque dall'81 all'88. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che, ripeto, è in diretta radiofonica, perciò scusate per tanti svarioni che ho detto o lungaggini di così, insomma, diciamo che è stato tutto improvvisato e come ho detto tutto si è basato su brani più o meno antimilitaristi di tutte queste band esistite nei primi anni 80 o perlomeno insomma 40 anni fa. Ripeto che questa trasmissione è Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane qui da Udine, dalle ore 20 alle 21.30, viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. Ricordo, sto un po' facendo in fretta perché stiamo sforando come orario, Ricordo i nostri contatti, che Zardins Magneti, scusate, il blog, se volete ascoltare questa trasmissione e anche quelle le scorse avvenute nelle altre settimane, potete farlo all'interno del blog, che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org, e così riascolterete tutto. Inoltre, se ci volete scrivere, potete farlo attraverso la posta elettronica, che è liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure sotto forma cartacea, scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34121 Trieste. Ripeto, è Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, codice di avviamento postale 34121 Trieste. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. Non so se c'è ancora un brano in sottofondo dei Wretched, al prossimo giovedì. Ciao a tutti.